cane e la pioggia che schiaffa i rami, strette le ginocchia, viso tra le mani, vento sulle guance ad asciugare il pianto, denti sulle labbra per non urlare più. Il buio fa paura, sotto le coperte nascondevi i sogni e con quelle unghie non li rubava più. Ora quei tuoi sogni li ha rubati un uomo mentre ti diceva ti lascio libera. Non serve tremare, non serve fuggire, guarda i suoi occhi.